Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per il sound check di questa domenica? Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera Francesco Tromba. Buonasera. Ieri avevamo anticipato che oggi avremmo trattato come argomento vita, opere e omissioni di un signore che ormai potremmo considerare un veterano della black music, anzi un caposcuola del rap, ovvero Lonnie Rashid Lynn Jr., nato nel 1972 a Chicago al secolo Common Sense, cioè che poi alla fine ha tagliato Sense. Sì, esatto, ha lasciato solo Common. Perché noi parliamo di Common? Intanto perché è stato da pochissimo pubblicato questo album che ha scalato le classifiche dell'R&B e della Black Music negli Stati Uniti per tanti motivi. Un album molto atteso, pubblicato in un momento di particolare tensione negli Stati Uniti. Sì, tra l'altro è stato pubblicato qualche giorno prima delle elezioni americane. Forse anche per questo motivo, diciamo, ha avuto un grande successo e in un certo senso cercava anche di indirizzare e consigliare il voto di un certo tipo di americani, però purtroppo ovviamente non è andata come Common pensava. Come Common pensava, anche se poi l'album ha un titolo preciso, no? Black America Again, ovvero? Sì, che poi è anche il titolo di una delle canzoni, una di quelle che sta avendo più successo, che c'è anche il featuring con Stevie Wonder. E infatti lo stesso Common dice che vedere il suo nome accanto a quello di Stevie Wonder l'ha reso completamente elettrizzato, perché è uno dei suoi miti, uno dei suoi idoli fin da quando era piccolo, Stevie Wonder. E certamente, e ascolteremo senz'altro la traccia che ha dato il titolo a questa nuova pubblicazione. Però vorrei raccontare anche la storia, gli esordi di Common, nato a Chicago. Forse anche per questo motivo adesso da Chicago stanno venendo fuori alcuni fra i rapper più rappresentativi, perché quando in una città così ci sono dei signori che spingono l'acceleratore sulla musica, così come ha fatto Common, che ha frequentato un ambiente musicale fatto da un grande producer come Jay Dilla, ha frequentato D'Angelo, ha frequentato Amir Thompson, oggi in arte Questlove, non poteva che venire fuori un asso del groove e del rap. Eh sì, perché adesso c'è tutto il movimento di Chicago, stanno venendo fuori veramente dei grandissimi rapper con un futuro sicuramente brillante davanti a loro. Però ricordiamo proprio la formazione anche di Common. Lui è figlio di un'educatrice e di un ex giocatore di basket che poi è diventato anche un allenatore. Nel 92, dopo due anni appena di università, lui fa il suo primo disco. Stava frequentando l'università in business administration, da lì ovviamente lo abbandonerà perché si apre per lui una carriera importantissima. Allora direi di ascoltare una registrazione dannata che ha come artefice, come artista Jay Dilla, che chiama per realizzare So Far To Go due assi della black music, Common e D'Angelo. Questo è il soundcheck di Radio 24. This is what I came here for. Scomparso nel 2006 giovanissimo un producer come Jay Dilla, che ha condizionato tutte le vicende della black music degli ultimi anni, e con lui si sono formati musicisti importanti da D'Angelo, Common, Questlove e i Roots. Prima o poi dobbiamo dedicare una puntata a Jay Dilla e a tutto quello che ha fatto per la black music. Beh, assolutamente sì, perché comunque è stato in un certo senso una sorta di messia, perché dopo di lui è cambiato tutto dopo di lui. Allora, torniamo invece a Common. Credi che sia stata importante per la formazione anche artistica e musicale la frequentazione dell'università? Non credo proprio, perché l'ha abbandonata quasi subito in realtà, quindi non è stata proprio fondamentale. Lui ha incontrato tra l'altro un producer che poi è diventato importantissimo nel mondo del rap, si chiama in realtà, perché è ancora vivo ovviamente, si chiama No ID, che poi ha abbandonato però dopo i suoi primi due dischi. Questo producer No ID è diventato poi anche il mentore in un certo senso di Kanye West, che ha dato anche il successo a Common, potremmo dire, perché i suoi duetti insieme a Kanye West poi hanno contribuito ad ampliare l'audience di Common, perché inizialmente non aveva un grandissimo successo come rapper, cioè era famoso a Chicago e nei dintorni, però non a livello nazionale e internazionale. Allora, vi ricordiamo che è stato da pochissimo pubblicato Black American Again, nuovo album per Common, e una delle tracce che a me piace di più è proprio questa Red Wine, e mi diverte anche il fatto che Common in qualche modo cita il nostro paese, ricordando probabilmente alcune esperienze vissute proprio a Roma. La partecipazione di Sid the Kid e Elena Pinder Hughes, che abbiamo già conosciuto come eccellente flautista nella formazione di Christian Scott Stretch Music. Common al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. We dance with ancestors. La forza, l'intelligenza, il grande spessore artistico di Common qui al soundcheck di Radio 24. Oggi parliamo proprio delle qualità di questo eccellente rapper. Si definisce un jazz rapper e tantissime sono state le collaborazioni realizzate da Common negli ultimi anni. Per esempio qui lo abbiamo ascoltato in Live Today, che è anche il brano che ha dato il titolo al primo album da solista del bassista Derrick Hodge, musicista che noi abbiamo molto amato quando suonava il contrabbasso con Malgrim Miller, ma poi ormai da anni è uno dei protagonisti degli Experiment di Robert Glasper. Sì, io volevo ricordare un momento particolare della carriera di Common, quello che in un certo senso gli ha fatto fare il salto di qualità. Nel 1999 lui si trasferisce a New York ed entra nel collettivo Soul, che si chiama Soulcarians, che era attivo già dalla fine degli anni 90, per dire alcuni dei membri di questo collettivo. È pazzesco. Fa paura: Questlove, Bilal, Roy Hargrove, Erykah Badu, D'Angelo, Mos Def, Q-Tip, cioè tutta gente che ha vinto Grammy Award a perdere, potremmo dire, anche The Roots, Questlove, in un certo senso si sono formati lì con questo collettivo. Sì, pensa, tutti giovanissimi, e credo che proprio in quel periodo il signor Common abbia incontrato l'amore con Erykah Badu, esatto, no? Perché hanno avuto una storia, sì. Che è durata anche un bel po'. Sì, e tra l'altro entra anche a far parte di quello che è l'album che gli fa, in un certo senso potremmo definirlo l'album d'oro di Common, ovvero Like Water for Chocolate, il primo disco per una multinazionale, per la MCA Records, che gli regala il successo definitivo. È in un certo senso un pilastro dell'hip hop. Ecco, fra i punti di forza di Common, senz'altro il timbro della voce. Ha una voce spettacolare, no? Sì, sì. E soprattutto anche comunque quello che ritmico. Comunica, perché non solo è bravo con le rime, ma soprattutto le sue rime comunicano qualcosa dal punto di vista sia sociale, storico, politico. Esatto, è questo fatto appunto dell'inserire sempre di più l'elemento politico, viene anche dagli ultimi anni in realtà, perché dopo aver fatto Selma lui racconta di aver capito e compreso come la politica è molto importante nella vita delle persone. Un'altra collaborazione importante con Robert Glasper, Experiment, I Stand Alone. La voce è quella di Common. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Glory, glory, hallelujah. Una carriera meravigliosa per Common, attore anche accreditato negli ultimi anni, molto richiesto, attore che partecipa anche a una produzione cinematografica intitolata Selma, che racconta le vicende anche drammatiche di Martin Luther King, e per questo film Common scrive Glory insieme a John Legend. E i due signori, quando? Un paio di anni fa? Sì, nel 2015 hanno ricevuto il premio, però quale premio hanno ricevuto? L'Oscar per la musica, e quindi lì la carriera di Common ulteriormente fa un salto in avanti. Soprattutto parlavamo prima appunto di come la politica entra anche nei testi di Common, e lui racconta nelle interviste che proprio questo film, realizzare questo film, gli ha fatto comprendere definitivamente quanto sia importante la politica per le persone, per cambiare la vita delle persone. Un'altra cosa importante di Common di questi periodi, di questi anni, che è stato più volte invitato alla Casa Bianca, è vero, da Obama, forse anche perché non so se Trump lo inviterà, non credo proprio, però appunto un'altra eredità che potremmo dire ci lascia Obama è stata quella di cercare appunto di cambiare la vita delle persone attraverso la cultura, perché ha organizzato tantissimi eventi culturali alla Casa Bianca, cosa che forse nessun presidente aveva fatto a questi livelli, cioè cercando di coinvolgere il più possibile gli attori dell'America, della società americana di oggi. Però appunto parlavamo di Common e del suo nuovo disco, di come sia intriso di politica, ma è intriso soprattutto di grandissimi musicisti. Certo, c'è tantissima musica, anche perché la produzione dell'album è affidata a un protagonista della black music. Sì, ovvero Karim Riggins, che è meraviglioso musicista, già batterista ma anche compositore, producer, che ha iniziato nel jazz suonando con i più grandi e poi in qualche modo si è lasciato andare alla produzione, lavoro che fa benissimo, e quindi ormai da anni lavora con Common. Sì, praticamente è l'erede di J. Dilla, perché sì, ha suonato anche lui. Con J. Dilla lui. Ebbene, allora direi di chiudere questo appuntamento del nostro Soundcheck ricordando Common con Black America Again. Questo è proprio il brano che dà il titolo a questo album splendido. Noi vi raccomandiamo l'acquisto di Black America Again anche per la partecipazione di Stevie Wonder, ma poi c'è Robert Glasper, c'è Esperanza Spalding, ci sono tutti in questo album. Sì, Bilal, io vi consiglio assolutamente di vedere su YouTube un Tiny Desk Concert alla libreria della Casa Bianca, veramente fa venire i brividi per l'emozione che regala. Sì, e se ce la fate cercate di vedere anche su YouTube la partecipazione di Common al Tonight Show di Jimmy Fallon, anche quello mi ha molto emozionato. Sì. A tutti voi buona serata, ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15 sempre qui su Radio 24, poi naturalmente faremo un passaggio mercoledì alle 21:15 su Rai 5 per un nuovo episodio di Variazioni sul tema. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba.